New Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome: Laura. Cognome: Rara. Età: 32. Nata: Napoli. Eletta in? Circoscrizione meridionale. Con quanti voti? Circa 54.000. Partito politico? Movimento 5 Stelle. Gruppo politico? Europe for Freedom and Direct Democracy. Segni particolari? Vegetariana. Quante lingue parla? 4. Competenze europee in 10 parole. Mi occupo di diritti fondamentali, diritto penale a livello europeo, diritti della proprietà intellettuale. Benvenuta nella You Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. Trattato di liberalizzazione UE-USA TTIP, sì o no? Assolutamente no. Perché no? Mette a rischio la tutela della salute dei cittadini, mette a rischio l'indipendenza della legiferazione dei singoli stati, apre la porta alla privatizzazione della giustizia civile, offrendo alle multinazionali la possibilità di fare scaccomatto agli stati nazionali, mette in gioco i piccoli imprenditori perché le esportazioni USA saranno molto più alte delle esportazioni dell'Unione Europea. L'importazione senza dazio di 70.000 tonnellate di olio d'oliva tunisino in 2 anni mette a rischio il Made in Italy? Sì, lo mette a rischio. Siamo fortemente contrari a questa proposta voluta dalla Mogherini, appoggiata dal Partito Democratico. Sappiamo che l'olio tunisino costa meno della metà rispetto a quello italiano, quindi agevolerà i grandi marchi che commercializzano l'olio, che saranno più propensi a comprarlo a prezzo inferiore rispetto a quello italiano, e di conseguenza verrà compromessa la sopravvivenza dei piccoli cittadini e dei piccoli proprietari italiani. Quindi quale soluzione proponete? La soluzione è quella di tutelare maggiormente il Made in Italy, tutelare i prodotti interni. Cameron ha ottenuto quello che voleva dall'UE. Unione Europea debole? L'Unione Europea è sicuramente debole in questo periodo storico. Il Regno Unito ha avuto un forte potere negoziale. Probabilmente Cameron non ha portato a casa esattamente il risultato sperato, però ha potuto sbattere i pugni sul tavolo. Commissione Europea e piccole e medie imprese. Rapporto difficile. Come promuovere la competitività? Tutelando maggiormente le piccole e medie imprese, dunque i prodotti locali. Poi si potrebbero mettere molto più a frutto i fondi europei che vengono stanziati anche a tutela delle piccole e medie imprese, garantendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'uso dei fondi, garantendo una maggiore facilità nell'accesso al microcredito e elidendo tutta quella parte di burocratizzazione che rende molto più difficile tutti i processi amministrativi e anche molto più torbidi. Perché si è candidata? Non mi sono mai sentita rappresentata da nessun partito politico e perché il Movimento 5 Stelle mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco in prima persona e di essere portavoce del volere dei cittadini. Cosa ha pensato quando è stata eletta? Avevo una enorme responsabilità che mi sarei dovuta rimboccare le maniche, cominciare a studiare e mettere a frutto tutto il volere, tutte le necessità, tutti i bisogni dei cittadini, dando il meglio di me. L'ultimo libro letto? Il diritto di avere diritti, di Stefano Rodotà. Il personaggio politico che più la ispira? Ma sinceramente non ho un personaggio politico che mi ispira. You Zone. Incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.